per la mia cultura. Quando m'aggiorno troppo torno zoppo, gobbio, l'anima in cura. Tu mi sfotti per certe lacune, come sfottermi per un regalo che avrò più già avuto. Ed ora mai ti annoia, non è per acume. Il demone è di Laplace, non spera come io non spero in lui. Da quando ho compreso che era solo una chimera, il mio coraggio è il mio lato vivo. Non mi piaccio se non sono reattivo per un sovraccarico cognitivo. Uno studio passivo, eccessivo e arido e privo della tensione che scarico se scrivo. Sofia, non sono il primo ad elogiare la follia. E per caso credi che l'hip hop non sia malattia? Nei termini della psichiatria questa anomalia è definita come un tipo di autismo con ecolalia di ferita. Ossia ripetizione di suoni non immediata. Ma perché ascolti me? Questa è una rappata. Il mio stile è tasso. Queste parole non hanno alcun senso.